io abbassato. La ventolina che c'è nel coso, nell'alimentatore switching. Sto usando quella adesso. Luca, andiamo proprio, mi fa di chi sta marasciutti, mi fa, lo muovo un po', e lui riparte. Ehi, Anto, non c'è niente che ho detto, ti ho detto, è il microfono. Ah, parola, bebe. Il microfono, è l'unico rifletto che c'ha praticamente, l'M60 è quello lì. Scappa. Ma che c'è un tattino, va, bisogna corrugiarlo così, E ogni tanto lo devi rimuovere, capito? Se non si ciola. Oh, capito. Quanto è il segnale così, Anto? Con 440, sì. Mo. Guarda a vedere quanto è così. Ma è 10, ma c'è una modulazione paurosa. Oh, paurosa, aspetta. Devo fare una cosa. Fai fare. Adesso quanto è il segnale? Più di 9-10? Un po' più in alto. Quanto? 9-20, quanto è? 9-20 non ci arriva, 9-15. Ma va bene comunque. Non ci arriva 9-10, cioè 9-20. E così ci arriva 9-20. E ancora no. Chiappa. La radio è spaventosa. Questa è una bella bestiolina al 430. Lo so, non mi giorno. Number one, dove eri? Sì, a casa, mi sono quasi pronto, eh. Stavo pettinando quei due ciuffi, mi sono rimasto in testa. Questo video è l'altro, anche la radio è buona. Per forza, è bella, prepotente. Il segnale va verso il più. Fai? Guarda a vedere. Sì, sul più sigla. Sì, non lo voglio andare. Metti un po' la truppa. Perfetto. Scappa, allora già abbiamo. Sicuramente tu a Luca lo vedi, per forza. Santa Maria Pisa è diversa la posizione. Ma Luca arriva forte sia a casa di Marina che a casa sua qua. Sì, ma sicuramente tu lo vedi. Non lo so. Sì, c'è lo picchio in pieno, c'è quell'altro lì tutto aperto, tu c'hai, quindi. Solo la parte mia c'hai. Capito? Come io c'ho la parte tua, mi sono detto io l'altro giorno. Che sono tappato per te. La collinetta purtroppo che ho io, fino ad arrivare su dove c'è la preghiera, ma mi tappa. Questo stato lì alla preghiera abitato guai. Mi aveva massacrato tutti da lì sopra. Fosse stato là, lavorando lì con i custodi, avrei messo un bel palo sopra dove c'è la scuola e mi sarei fatto fare la calata, direttamente da lì mi sarei fatto la calata. A voglia anche qui, si vede tutto, si vede là. Io ti ricordo che l'antenna non è al suo posto, l'antenna è 2 metri, 2, 4 metri e praticamente mi sto soffrendo di 2 metri perché non è sopra il tetto, non c'ho tempo, adesso vediamo, dopo l'estate a settembre, chiamerò l'autoscala, la faccio piazzare sopra la casa, antenna sopra il muretto di recinzione, quindi è molto bassa, capito? Vabbè. Comunque non mi sarei fidato molto io a mettere l'antenna più alta della vegetazione, hai capito il rischio purtroppo. Poi se c'è il pozzo a sonda guai, il problema è quello, quando qualcuno abita in campagna deve stare ben attento, hai capito? Il discorso è quello, quando c'è città è un po' difficile che ti prenda in piena, a meno che non c'hai una fonte sotto, come è successo a quello che abitava qua sul semaforo, che sotto casa sua c'era l'acqua sotto il palazzo, come c'era anche il grattacielo d'altronde, lì è tutto pieno d'acqua, c'è cioè anche io in campagna mi riproduttore, se quando ho pensato l'antenna del baracchino, temevo il brutto. Se mi piglia in pieno sono fottuto qua, mi incendio tutto, perché sotto la casa quando abbiamo fatto le fondamenta, ho trovato l'acqua a 15 cm, capito? E Babbo ha fatto in pratica per sbaglio lì sopra. Se io ne butto giù la casa e prendo una ruspa e scendo di un metro, trovo l'acqua, trovo, tiro l'acqua lì. Come d'altronde anche 200 metri a fianco a Coso, a Birissi, dove c'è il capannone. Anche lì sotto dove hanno messo la tubazione delle colline, se tu già lo sai, hanno trovato l'acqua, sembrava una vasca da bagno, pariente. Va bene, signore, io vi saluto, ciao Claudio. Antonio, ci vediamo dopo, se vuoi. Ciao Pomponio, alla prossima, ciao. Ok, lo io ti chiamo, Ciao Lucio, ci sentiamo al prossimo, anche vi saluto dopo. Sì, ciao. Io e poi ci sentiamo, statevi bene. Se ci siete, ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Già sei poco polemico, Antonè, caspettina. No, non sono polemico, più che altro, perché purtroppo in campagna è così, quando uno abita in campagna deve stare molto attento su queste cose qua, capito? E non è che tu non ci hai mai abitato in campagna, però adesso qualcosa io, che quando andavo con, uscivo con Daniele, che ogni volta che c'era la temporale, cazzo, partiva il cancello elettrico senza fargli nulla. Ma che cosa? Perché in pratica l'unica cosa che abbiamo in pieno, cazzo, era il coso. Se c'è posta sonda, guai. Basta pure un parafulmine, assai tu. Basta vedere parafulmine, ma se parafulmine non è, cosa vuoi? Il discorso è quello lì, non è che sono polemico, sono le cose giuste, sono quello che tu dicevo, sono sbagliate. Purtroppo è così. Io ci ho abitato in campagna, in Viale Polo Torres, ci ho abitato quasi 6-7 mesi, dopodiché sono andato a casa di Mario a abitare, di Mario Manset, sto dicendo per quello. Quando c'avevo l'antenna piazzata lì, la Super Legibus, quando uscivo temevo un bel telefono, così che mi scendiasse tutta la casa, perché sotto proprio la casetta che abbiamo fatto è pieno d'acqua. Tuo padre non le poteva vedere prima queste cose. Si è fatto su un vespaio e ha costruito sopra, gliene fregava nulla a lui di fare ha fatto una casetta per attrezzi in pratica. Poi l'ha ampliata e adesso è diventato un cosa ti posso dire, un mucchio di cose, ne sta cadendo. C'è uno che ci abita lì, ho visto l'altro giorno, e gli ho detto a me, sbattenula, ho detto di quel terreno, ma lanciati tu, chiama i carabinieri e ce lo butti fuori, ci metti due cartelle, dove lo chiediamo dove non c'è più nessuno. Tanto cosa prendo, l'aereo sta per passare lì alla... perché ponte non viene crollato, quindi cosa me ne frega di quella campagna? Prima ci scendevo, sono qua a piedi, cosa devo scendere a fare? A farmi mettere sotto? Non saranno. Ah, perché non ho fatto la migliore offerente? E vi vinti di tutto, cosa te ne fai sta roba? Giovanna non vuole vendere, vuole tenersi la campagna, non posso fare niente io. A me non mi piace la campagna, se lei vuole la campagna, farà quello che deve fare, non lo so. Sì, ma anche me ha detto un bene che vivo nel montone di Napa a bonificare questa cosa, e cosa te ne fai? Invece era meglio fare vendere e dividere i soldi, è stato molto meglio. Vabbè, a lei piace la campagna, cosa le posso fare? Quindi a me non è che me ne frega niente. Deciderà lei cosa fare al momento opportuno e si vedrà un po'. Non è una... cioè secondo me non si può neanche costruire lì. Sì, non è che è già costruito, è solamente da ultimare, capito? So che adesso è abbandonato lì, non è il tempo, quindi l'usura, capito? Quando ti entra l'acqua dal tetto e cose del genere, cominciano le pignate a cedere, capito? Il discorso è quello, quindi il rudere che è diventato rudere del tutto. Per costruire lì bisogna buttare tutto giù con la ruspa e costruire una bella villetta, fare le fondamenta come si deve, non come sono adesso, e non servono a niente. Fare le fondamenta con quattro pilastri, sollevato la terra, e vedere che quella casa va bene. pozzo per l'acqua, cioè il pozzo per lavare l'acqua, e allora la luce, vabbè, ce l'abbiamo già, quindi lì per quello non abbiamo problemi. Ma perché? Ma che cazzo? Ma già le dina che vi pone, eh? La sorella non ne ha neanche un'idea i soldi che ci vogliono per fare una cosa come si deve lì. Ma ve ne pone i barommi? Vabbè, voi ti dite. Ognuno sa fare le sue scelte. A me già mi piace stare qua. Purtroppo vivere per l'ottobre se è pericoloso, capito? Quando ci vuoi molto, cazzo, anche quando uscivo, cazzo, da lì, dall'uscita, in piena curva, ti tieni bigia di me, ti pigliano in pieno, perché lì si mettono a pompare dal dall'oppo del fornitore, e poi, a posto di camminare a 40, 50, incominciano a pompare, capito? Quindi uno si è arroccato al palo, mi, di fronte a Bilissi. Già lo so com'è la storia, già lo so. Tutti buoni, buoni va, però ci vogliono soldi, ci vogliono, ma parecchi pure. Ma perché hai abitato a casa di Mario per un periodo? Allora, abitato a casa di Mario, sì. Quindi, quasi 6 mesi mi sono abitato, una cosa del genere. Poi ho trovato casa lì in Consuetudo Emanuele, da lì sono stato, forse 4 o 5 anni, una cosa del genere. Da lì mi è trasferito in Via San Donato. Per Via San Donato sono rimasto altri 3 anni, mi sembra. Allora poi mi ha lasciato libero, ma fortunatamente la mansarda. Quello là sono salito direttamente qua, da qui non mi sono più mosso. Capa. Ciao, a quell'ora, va bene? Ok. Ti stavo leggendo, così è. Ce lo so, uscivo forte me comunque dalla campagna. In quel punto lì, Porto Torres in pieno, per Daniela, Porto Torres. Proprio il canale giusto. Poi dall'altra parte c'avevo tutto il centro storico, il grattacielo, e la zona di Via Roma, fino ad arrivare alla, come si chiama, al Magistero. Quello era il punto più aperto che c'avevo in campagna. Bassa la casa in campagna lì. E la casa era bassa, ma il palo già alto. Con Mario ci avevamo messo 6 metri di palo, vedi? Con la Super Regibus che era alta 5 metri e 50. Pesava quasi 1 chilo, pesava quell'antenna. Quando l'abbiamo sollevata in 3. Figurati. Però già uscivo bene. Ok, vado mi costi 80. Forte. Figurati, con 70 disturbi che avevo quando sono salito qua su, non ne avevo per niente. Lui usava 70, sembrava molto, non sentivo macchine, non sentivo nulla, stavo veramente bene lì. Quando sono arrivato qui mi sono messo le mani in testa, gli ho detto, ma claro, non ce la faccio, ho detto, a stare con l'orecchio, cazzo, c'ho l'orecchio, cazzo, come il coso, ho detto, come quello dei preti quando si entra la chiesa, ho detto, che senti tutto il mormorio, di tutti veniva mal di testa. Medagosaga. Purtroppo è così. Capito? Qua è un casino, già lo sa che Claudio. Disturbi di fruscio della 15.000, poi scariche elettriche perché passano le macchine, è sempre pieno qua. Io non c'è manco parcheggio, sembra di essere a coso qua. Qua cercano il parcheggio, non l'acciappi solamente di domenica, quando il bar è chiuso. E gli altri negozi sono chiusi, no, non trovi nulla. Per te non era la zona migliore, però. Come te ce l'ha dato la campagna, Antone? Perché quando ho finita la casa, cosa faccio? Stavo a morire di freddo in Kiwi, non sarà, no? Adesso ho salito la casa come si deve e basta. E lì, in corso Vittorio Emanuele, avevo preso quel tarico di quella Grand Prix che ti ho dato. Quindi figurati tu. Avevo preso la Grand Prix, ho detto, me l'antenna buona a coso. Non ti preoccupare, tu mi ha detto, ti do l'antenna che regge il 20, cazzo. Infatti si è vista come te la piegata. Per carità. l'antenna era buona però come antenna. Sei stato qua, dove ti aveva fatto fare un giro di smitter. Quella mazzetta andava bene, lo sai, perché se quella mazzetta li metti la turbo 2001 e li metti radiali hai fatto 13, è come avere una 5 ottavi, tale uguale. Ma quale? Quella mazzetta di quella Grand Prix, ti ricordi che c'erano praticamente c'erano radiali orizzontali e gli altri più bassi di inclinazione, ti ricordi? Quattro fuori sopra e quattro sotto, se non mi ricordo male. Quindi togliendogli lo stilo che c'è originale, gli avevi messo la basetta della cosa, la tubo 2001, l'avevi fatta diventare 5 ottavi quella antenna. Sarebbe stato un bombo, sarebbe stata installata. Già lo so, già. Chiappa. Qua, sei stato qua ancora, qui non mi sarebbe arrivato quasi 9.50, 9.60. Se fossi stato in campagna ti sei arrivato al minimo 9.60, perché l'inerario eravamo vicino. Da qua non so quanto che arrivo, sarà 9.20, 9.30. 9.20, sì. Lo so, sono tappato, sembra così ma sono tappato io. C'è il grattacielo, poi c'è tutte quelle palazzine più alte di via Roma, eccetera, eccetera. Quando vieni a casa ogni giorno ti faccio vedere col binocolo. Già lo so, già. Se il palazzo che c'è a Pedaleta, quello dove stanno facendo il vaccino, in pieno lo prendo da casa, da qua. Quando schiaccio con la direttiva, non riesco a parlare quelli che sono sotto con quelli che stanno nei parcheggi di su. Ah, i poverini. Un giorno ho fatto la prova e tu riesci a vedere qualcosa con il veicolare, se riesco a parlare, se sono sovrammodulato non sentivo nulla, dice aspetta non ti sento. Chi è che vuole entrare? Avanti. C'è qualcuno che vuole entrare? Avanti. Chi è il ciucucciù? Qualcuno ha fatto giucucciù. Avanti, ciucucciù. Sono Paolo Falcone, vieni fammi dare il gioco della calzetta. Ti avvolto con tre, famiglia. Per carità. Ce l'aveva sempre con Danilo, ce l'aveva. Che con Danilo Stucchi? Figlia! Me lo ricordo. Io lo facevo incazzare. Sì, non so, l'autunno. Io lo facevo a pezzi, Tonino e tanto. Per carità, poi Danilo, la faceva incazzare, cosa amava la faceva incazzare. Specialmente quando trovava qualcuno nuovo, mica è appena entrato. Buongiorno, c'è uno, c'è lui da... Dice, buongiorno, sono nuovo, mi chiamo, non mi ricordo bene cosa mi ha detto, e parlo già subito, ah ciao, sei nuovo, ti posso fare un giochetto? Dimmi, che giochetto vuoi fare? Il gioco della calzetta, e gli altri dice, ma tutti floci siete qua. Un giorno stava rompendo le scatole al fratello del mio principale, Edo Paoletto. E ha detto, oh sai, rompi le palame fratello, brutto frocio, ha detto. Ma perché mi devi aiutare con la tacciaffi? Sì, una scena era. Quindi secondo chi era lo suonava pure mia. Lui a te. Ha fatto di Luca, l'ha fatto incassare una sera, è andato lì, non so come diavolo l'abbia fatto, ha saltato le cose, il cancello, il muro, è salito sul battetto, ha preso il tirato e ha abbigliato palo e tutto. Pure che l'ha rompito le cazzole. Sì, ha già rialzato le palle infatti. L'ha offeso la principessa, l'ha offeso. La mia noi due a mezzo. Cazzo, non so come diavolo l'abbia fatto. lo so, ma tu sei matto, ho detto, anche adesso ho fatto, ho detto così, non me l'ha fottuta, se vado, vado, ma a me l'ha finito di modulare, e sta detto sopra, ho detto, non so niente, io, vai, vai, lanciati, c'ero anch'io, c'ero in macchina, c'eravamo io e Andrea Maricco, qui, qua. E ha detto parla, adesso parla che non c'hai più antenna, parla, parla con il muro, cazzo, aveva stracciato tutto, cavo, c'è sta cavo, usciva solamente col cavo, era stracciato il piede, la prima mette sedere, cioè, ha picchiato palo, antenna, tanto via. E poi qualcuno gliel'ha rimessa. Più di una volta gliel'avevo rimessa io, l'antenna. Invece Torino era, non so, gli aveva messo l'antenna, gli aveva attaccato solo il positivo, la massa no. Intanto modulava tranquillo, usciva bene. Non ha mai bruciato un baracchino, se ci metti un chilo tu il fumo li fai uscire. Adesso gliel'avevo fatta apposta. Sì, gliel'avevo fatta apposta. E si è fatto pagare Torino, meno male. È passato palo, antenna, lì, capito dove abitava. Le risate, cazzo. Ma come gli hai fatto la terra? Ah, io questo sono il positivo, gli ho saldato nel campo. Le altro gliel'ho staccato, almeno lo sembra anch'io. E invece ti hanno dovuto da chi ci hanno mattesse. Allora, infatti, usciva lo stesso, ma usciva lo stesso bene. Lo sentivamo tutti. Magari li faceva da massa lo stesso. Non lo so, ma comunque mangiava l'antenna come si deve, guarda che lui arrivava fino a Covemme, lo sai. Lo sentiva Gigi Vulcano, lo sentiva quando parlava Baracchino. Io da di due, lo sentiva Poveretto parlare quando arrivava lì a Marcovera. In quel punto che era proprio di fronte a Montoro, faceva lo spicchio. Allucinante, ragà. Era cannoso, era, guarda, cannoso, per la verità. Avrei notato che qualche apparecchio già l'ha sciolto. Sì, qualcuno sì, ma te lo sto dicendo. Gli altri già non li ha sciolti, non lo penso. Qualcuno li hanno fregato. Dalle macchine non li tornavano più. Già ne hanno fatto pagare di roba. Già ce l'hanno imputito. Sì, già me lo ricordo, aspetta un attimino, arrivo su. Beh, no, raccoglie la monnezza, monnezza. Cosa te è? E sono andato a raccogliere la monnezza, ho detto. Poi c'è dentro la busta, dopo che mi tira la devo buttare, scendo il cane giù. Così vediamo un po'. Cazzo, sta mangiando mozzarella il cane, non ho capito perché. Tutto questo, la salsiccia non le mangia, non mangia niente. E sai cosa cazzo l'ha pigliato questi giorni? O c'è caldo. E hai fatto diarrea, eh? No, diarrea niente, ma lì, si è mangiata subito, anche il finocchio si è mangiato, la verità, gli piacciono, però salsiccia no, e subito la faceva fuori, o per dire facevo un tosto col prosciutto, ho capito se la mangiava un pezzo anche lui, questa volta nulla, il caldo, sta massacrando il caldo, sta bevendo acqua e basta. Poverino. C'è caldo come massata, ricordo quando esci fuori che cuoci. Adesso mi attiro a fare le sardine, ragazzi. Mi apro un bellone, accendo quella cosa elettrica, cazzo, per cucinare. Mi metto a cucinare alle 10 del mattino, perché se cucino alle mezzogiorno guai, ci rimango secco lì. Ah, ma il caldo c'è. Io mi ricordo, sarò nell'ottavo, stavo dicendo 96, 97, 98 pure, che sentivo a Paoletto, sentivo, anche prima. Perché Paoletto è entrato nel 94, mi sono ricordo, no. No, l'84 sono entrato io. Lui è entrato nell'87. 2 anni dopo di me è entrato. Ha smesso, te lo ricordi tu? Sì? In che anno ha smesso di modulare? In che anno ha smesso lui? Sai che non me lamento più. Penso nel 2000, forse 2001. 91. Più di 20 anni fa. Sì, mi sembra intorno al 2000-2001 che ha smesso. Però nell'87 già, 2000, mi ricordo che lui è stato 2 anni dopo di me. È entrato a Palacchino. Caffa, roba di casini tutti i giorni, Antone. Sì, ma tu immagini, nell'87 quasi tutti c'avevano 23 canali, chi c'aveva soldi c'aveva gli apparecchi grossi, chi 40, chi 120 eccetera eccetera, io di là brutto non avevo, perché non avevo soldi per tenerlo lì, i 40 canali mi sembra che l'avevo comprato nelle, intorno alle, in, forse nel 90, cosa. Dopo quello avevo comprato, in pratica avevo comprato il precedente e poi dopo un po' di tempo avevo comprato il, questo qua, questo che sto usando adesso, il primo 200 canali. Gappa. E allora Antone, chi aveva 40 canali era un lusso, eh? E infatti era un lusso, sì. C'era Fabretto che ce l'ha comprato lui e poi Walter e poi altri 5-6 persone, mi sembra anche Claudio che saliva sui canali alti. E vabbè, era pieno di cibi vicino a me, tu figurati. Ah, mi sono dimenticato, cioè, avevo comprato il multimo dei 3, tu immaginati, con il lavandino, ragazzi. Prima di comprarmi il coso, il Super 3 Milano, avevo comprato il multimo dei 3. E poi prima ancora di quello, il Viking 2, ho dato un lavandino. Perché non erano buone, troppo grandi, dici tu. Sono distratto perché ero una mamma, così, dove abitavo io avevo più di 15 cibini intorno. Vabbè, avete girato le balle, c'è questo qua che sta facendo un casino. Sì, c'è proprio cazzo in FM, sono tutti peschi. Scappa, va per lo doghiero tanto, aspetta, facciamolo scaldare un attimino. Scappa. Così, Antone. Io mi ricordo anche Babbo me lo diceva che aveva quel tipo di apparecchi di 40 canali in quegli anni, in certi anni era un lusso, era. Sì, era un lusso, sì. Immaginate, io con pace 123 dopo un po' di anni quasi tutti erano, non quasi tutti, c'erano un bel po' di gente, c'erano i 40 canali, chi 34, chi 40. Quando è venuto l'esco mi ha trovato poco una roba, mi ha trovato l'ultimo dei 3, mi ha trovato il 2 toccai, poi un lineare, un Viking 2, un bel ribalacchi, ma tutto io, non roba mia, quando è entrato ho detto ma fatta, oggi questi mi ammazzano, se li ha segnati tutti, meno male, poi mi aveva lasciato in pace, ma è passato molto, dopo 2 mesi, boh, torno all'attacco. Con un legname, se qua la da giù, sapete che non rompere più. Mi sono sempre attaccato io, 100 watt ogni arimi, di mattina e di sera, perché mi è modulato la terrazzino, ho avuto un freddo in inverno, ma mi è verificato, è una cosa allucinante, poi la terrazzino piccolo, ci sono uscito la terrazzino grande. Belli quegli anni però, Antone. Allora eri giovane. Ero giovane, poi c'era la fuga del cavallo morto, hai capito? Quando uscivi con qualche CB cominciava già a sollevarsi da prezzo. Capa, Antone, me lo fai scambiare l'apparecchio? La mamma già gira due balle, chiccio. E scambia, non c'è problema. Vai, maniaca troppo. FM lo ammazzi, se parli sempre di FM lo disintegri. già non so già dov'è. Lo usavo sia 80 da per dire che lo trovo con 50, cazzo, quando usavo 3 FM era un demonio, cazzo, con l'apparecchio, era veramente bello. Tra l'altro quanto pompava in FM. Poi a me Antonio andare in FM. Bisogna cambiare parecchio però, perché questo c'è un problema in FM, questo qua. Devo cambiare un trim e c'ha più di 20 anni, c'è anche ragione mia. Solo che la mando via mia. Posso usare l'omologato, mi aggancio l'omologato, se aspetti 3 minuti mi aggancio l'omologato e così passiamo in FM. Ehi ragazzo, glielo faccio vedere io, aiuto un machine boy. Ehi, aspetta un attimo, attacco l'FM 500S così almeno. E poi l'FM funziona benissimo. Gappa gappa. Ehi, a dove mi senti? Ehi, vai l'FM, là. Euro, l'ho visto ieri, a meno 30, quelli a meno, quello vecchio che c'ho qui, che ha più di 20 anni, non ce lo metto in garage, se no qualcuno che serve in campagna, a meno, perché funziona, a meno lo utilizza. Dipende dalla smithera alla smithera, non è che ognuno ha la smithera è tanto per i fatti suoi in pratica, ogni macchina. Che lo fa? Quello giusto che c'avevo era del coso da 680, quello già facevo le regolazioni, infatti tramite il 680 lo utilizzavo per poter riparare i baracchini, capito? Era perfetto, anche in MFM per dire facevo le tarature, perché te la accorgi subito, perché quando sei leggermente fuori frequenza senti il sibilo, senti quando ti metti le cuffie, e quindi facevo le tarature giù 6 mm. Beh, lo so già. Questo qua è tarato abbastanza bene, l'87. No, quella è perfetta, quella è una bomba quel barattino, è veramente bello, esce bene, esce veramente forte come l'aria, come segnale, è sempre stato un bel barattino quello. Giappo, già me ne sono accorto, Giappo. Non so, li puoi mettere qualsiasi microfono, se li metti in salerta è un treno, ecco. No, va bene l'MB4, non mi piace Salerta. Eppure pompa un bel Salerta. Quando utilizzavo il Salerta al teatro di Codi non si poteva, mi dicevi sempre ammassa sei troppo forte. Tutto si sentiva con Salerta. Anche quando torbiavi. Cappa. Ma già va bene questo MB4, poi me l'ha regalato una persona. E ci tengo a usarlo. Cappa, già è buono. Alleluia. È un treno, un microfono. Io ce l'ho, lo sto usando io adesso con l'FM500S. Figurati, ho cambiato la capsula. Poi ho tolto quella originale e l'avevo messo un'altra. No, questo qua come si chiama? È originale. Cappa. Già va bene, se è originale è meglio così. Ma io modifica non ne faccio perché la mia voce lo spinge bene, quindi non è un problema, capito? Ora, 1, 2, 3, prova, vedi, io mi sto sentendo, è una bomba. No, per la tipica tua va benissimo, la tipica mia che è, capito, se lascio la capsula originale non serve a niente, invece con l'altra capsula, quella del videocitofono, diventa un bonbon, come ho fatto con Salerta, tale uguale. Io porto molto bene anche l'MC60. Sì, tu sì, io quando l'ho usato il primo giorno, per carità, una bambina sembrava che stavo usando. Non riuscivo a uscire come si deve, ho preso e l'avevo istituito a Claudio. E Claudio mi ha dato un alimentatore, mi aveva dato. Non è adatto per tale voce. No, sono infatti, ci avevo pensato a Salerta io, nel 680. Poi l'avevo fatto la modifica dietro, siccome i cavetti c'erano rossi, mi sono alimentato direttamente in Salerta con il 680, in automatico. Così non stavo usando le batterie, ed era perfetto. Ma penso di non avere problemi io con i microfoni. Perché è una voce che si porta molto bene, capito? Oh, tu è bellissimo. Anche tu qua riusciva bene con quel tipo di microfono. E la tipica mia che ciò che non serve a niente, capito? Beh, ognuno c'ha la sua timbrica. Ok, dai. Adesso io vado. Vado e ce la sentiamo alle prossime. Ok? chiami a Luca di là, se ci sentiamo là non c'è problema. Ehi Kappa, ciao ciao Antonè, ce la risentiamo, ciao. Ehi, ciao ciao. Se vado lì, non lo so, vediamo un po'. Ok, ciao ciao. D'accordo, ciao, alle prossime.